Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Siete impagabili in quanto a disonestà intellettuale lì a Radio 24. Poi Milan è il capo. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui alle 9-8 minuti per una nuova puntata, grazie. So che mettete con tanto amore questa presigla, la scelgono proprio accuratamente in redazione tra le tante arrivate. Oggi questa, vedo soprattutto l'Alpino, molto contento in regia per questi insulti che arrivano. Però è sempre la stessa che rimettete, eh? Io vi conosco, mascherine. Allora, con te, con Elisabetta Fusconi, Mina Lucchetti e Lorenzo Nespoli, diamo il benvenuto a tutti quanti. C'è anche in arrivo virtuale Sio Bonetti, Lentopede, Leonardo, Caldaia, Manera. Oggi qua si stava battagliando in redazione poco prima di entrare, si litigava con testate, soprattutto con Elisabetta Fusconi, perché... No, ho detto prima di entrare, adesso faccio la crociata contro i monopattini. Non è ma vero. Ma c'è gente che veramente ti strappa gli schiaffi dalle mani. più o meno, per esempio, qui in redazione. No, non farò, mi sono espresso velocemente, non voglio fare una crociata contro i monopattini, ma il discorso è un po' più ampio. Però partiamo, dai. I will not be easy and it will not be easy. Allora, 9:09. Non è una. Allora, la introduco così la questione, facendovi sentire Sala, che però parla d'altro, il sindaco di Milano, sul tema smart working, ma mi permette di dire qualcosa su Milano, quello che sta succedendo a Milano, io conosco Milano, poi le altre città mi direte voi. Che bisogna fare? Io quello che volevo dire è che avevo individuato lì una finestra di situazione sanitaria tranquilla e, essendo preoccupato del fatto che la città era abbastanza ferma, è chiaro che era un invito rivolto poi non tanto ai lavoratori, ma la mia preoccupazione di allora e di oggi è quando vedo una torre dove normalmente stanno 2-3 mila dipendenti che è sbarrata. Non è che dal sindaco non posso preoccuparmi. Insomma, la preoccupazione di Sala, che non è la prima volta che dice non contro lo smart working, ma preoccupato, aveva già invitato a dire: cari milanesi, adesso torniamo a lavorare, i posti di lavoro sono vuoti. Effettivamente anche qui la redazione di Via Monterolo, io sto benissimo, sono un orso bruno, quindi meno gente vedo nella vita, io sto benissimo. Però fa effettivamente un po' specie camminare in corridoi che erano di solito molto molto affollati e trovarli praticamente deserti, perché c'è una quantità di smart working molto molto numerosa. Ma quando lavori? No, per l'appunto, no, lo smart working è lavoro, caro presidente De Luca. Però presidente Luca, adesso stia lì, che tra l'altro ne abbiamo una appunto sul presidente De Luca, perché la battuta del giorno oggi di Briatore. Ma appunto, Sala, Milano, monopattini, viabilità, mobilità, biciclette, tricicli, mezzi di trasporto strani fatti venire dalla Germania appositamente, come alcuni in redazione. Allora, la questione è questa. Io non sono contro questa mobilità, anzi, sarebbe bellissimo potersi muovere tutti come in Olanda, in bicicletta. Mia cognata sta in Olanda, cioè vivono in bicicletta, dormono in bicicletta, fanno le case sulle biciclette, stupendo. Il problema è questo, che le città, una città come Milano è fatta di strade strette, con parcheggi molto rari, gente che fa fatica a parcheggiare. Allora, per dire, se volete fare delle ciclabili, io sono perfettamente d'accordo, ma la ciclabile si fa con i cordoli che separano la ciclabile dalla via di scorrimento delle macchine, per esempio la base, i cordoli, la divisione, oppure dei murettini bassi che dividano, che separino la ciclabile per la sicurezza dei ciclisti. La ciclabile deve essere ben segnata di modo che il ciclista è sicuro. Se fai una ciclabile come l'hanno fatta a Milano in alcune vie, Viale Monza, Corso Buenos Aires, chi abita in quelle zone è infuriato, segnando con la vernice dei segni di biciclette dicendo qui vanno le biciclette, succederanno una marea di incidenti, e mi dispiace, succederà una marea di incidenti, come è successo ieri con un monopattino a Milano, mi risulta anche a Bergamo, un monopattino, tra l'altro la persona in monopattino è molto grave. Quindi io sono pro queste cose se fatte bene, se fatte alla carlona, come scusami, scusami, no, è tale Elisabetta Fusconi, tale il livore che mi hai creato, che io mi sono sentita di dover subentrare in studio. Sì, cosa vuoi? Io non tollero queste invettive contro chi si prodiga per una mobilità più sostenibile. Ma si prodigano male. Non si prodigano male. Ma qual è il problema di queste piste ciclabili create in fretta e furia? Ma con tutta la buona volontà da parte dell'amministrazione, Sala di nuovo. Vabbè, torno e lo invito di nuovo a prendi soldi da Sala, c'ha le consulenze, a non ascoltarlo, non sa quello che dice. Milano, c'ha le consulenze, no, vabbè. Non è quello, ma il problema di queste piste ciclabili che alcuni sostengono siano male, senza un'istigazione cordoli, al suicidio, senza separazioni, e quindi sono un'insicurezza per i ciclisti. Ma chi sono i pericolosi che circolano, gli automobilisti o i ciclisti? Ma certo, ma gli automobilisti, ma è ovvio, ma chi è che deve stare attento? Colui che è in macchina. Se anche vai a 50 all'ora, ci saranno, quindi nei limiti di velocità, ci saranno decine di incidenti. Ma purtroppo, io in bici, perché o io sono in fatte male. Ma io in bici o io in monopattino non ti affollo i mezzi pubblici e quindi contribuisco alla mancata diffusione del virus. Vai in Svizzera. Insopportabile. Vai in Svizzera. Questo tuo altranzismo. Vai in Svizzera. In Svizzera subito! Fuori! Prima ha detto, adesso quando arriva qualcuno, perché c'è qualche collega che si sposta in monopattino, faccio dei giri in monopattino dello studio. In Svizzera subito! Va bene, dai, alle 9:14 minuti. No, volevo dire questa di De Luca e Briatore. Oggi devo dire, Briatore fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Candida Morvillo, e fa la battuta del giorno, effettivamente. De Luca si era arrabbiato con Briatore dicendo che l'aveva preso in giro così, no? De Luca, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo. Che ha detto che quando si è ammalato di Covid, De Luca, presidente della campagna, l'ha preso in giro così. Inviamo un augurio affettuoso intanto a Flavio Briatore, che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni. I migliori auguri di pronto ristabilimento. La risposta oggi di Briatore, ha detto, e De Luca, la prostatite 50 centimetri sopra i polmoni. Beh, signori, due colossi del pensiero, come Hegel e Jung. Siete hegeliani o junghiani? Siete De Luciani o briatoriani? Vabbè. Alle 9:15 minuti, dai, abbiamo anche un po' scherzato perché vogliamo parlare invece di cose serie, tornando su un argomento che abbiamo affrontato varie volte qui in questi giorni. Ieri avevamo anche il ministro degli esteri Di Maio, da Simone Spezia, a dire che la vicenda dei 18 pescatori italiani che sono trattenuti a Bengasi verrà risolta. Questo è l'impegno del governo italiano, io non ho dubbi al riguardo, il problema sono anche i tempi, il problema è che la controparte, cioè la Libia, dice, almeno questo si capisce attraverso i giornali, noi vi restituiamo i 18 pescatori trattenuti a Bengasi, che sono stati trattenuti perché hanno invaso le acque territoriali facendo pesca, questo è il motivo, però voi in cambio dovete darci 4 persone che in Italia sono in carcere e che la Libia considera semplicemente dei calciatori che sono stati scambiati per scafisti. Invece la procura di Catania dice è tutto ignobile, sono degli scafisti veri e propri accusati di reati brutali. Io voglio salutare, adesso la raggiungiamo, l'avvocato Cinzia Pecoraro, che è l'avvocato di uno dei 4 ragazzi libici accusati di essere appunto degli scafisti. Sono appunto qui in Italia, sono accusati di reati gravi, ripeto, uno di avere anche chiuso il boccaporto durante una traversata causando la morte di diversi migranti, era in linea l'avvocato Pecoraro, ma è caduta, stiamo cercando di recuperarla, ma al momento non risponde. L'abbiamo recuperata, avvocato Pecoraro, buongiorno. Buongiorno. Ah, eccoci, era caduta la linea mentre la stavo salutando. Lei difende uno dei quattro libici, ma ci conferma che per la Libia, e loro dicono sono calciatori, cioè c'è stato uno scambio di persone clamoroso? Sì, sì, loro sono calciatori, abbiamo le prove che sono dei calciatori. Cioè? Qualche foto? Sa, qualche foto no, magari? No, le foto, ma anche la certificazione, il tesserino di iscrizione al club. Che poi, mi scusi, essere calciatore non vuol dire essere anche, certo, nel caso scafista, eh? Non è che, cioè, uno potrebbe aver fatto il calciatore per un po' e poi aver fatto lo scafista. Adesso non... Certo, però ci sono altri elementi, non c'è solo quello. Poi chi ha, diciamo, già un'attività, il mio per esempio è uno studente universitario, iscritto in architettura e faceva anche il calciatore. Che interesse aveva a fare lo scafista, a rischiare la vita per pochi soldi? E quindi era sulla barca perché? Era sulla barca perché un suo amico qualche settimana prima era arrivato in Germania, perché il loro sogno era quello di giocare in Europa. E questo suo amico, non avendo ottenuto il visto, era andato clandestinamente. E allora il mio cliente aveva tentato di ottenere il visto, non c'era riuscito, e di nascosto ai genitori, perché aveva 20 anni allora, quindi l'incoscienza del ventenne, ha seguito il consiglio dell'amico e gli ha detto: guarda, imbarcati clandestinamente, tanto insomma paghi per partire, arrivi in Europa tranquillamente come ho fatto io. Cioè, era un migrante clandestino, uno delle tante persone che tenta la traversata e fa la traversata, esatto, pagando. Quindi, esatto. Perché invece, guardi che la procura però dice ci sono delle prove schiaccianti, ci sono state delle condanne, no? Chiaramente sono, sì, in carcere. Sì, sì, sì, certo, sono in carcere da quasi 5 anni, anzi da più di 5 anni, il procedimento nella fase della Cassazione, dobbiamo depositare a giorni il ricorso per Cassazione, e vi sono alcuni testimoni che hanno raccontato nell'immediatezza dei fatti che questo ragazzo nello specifico ha passato delle bottiglie d'acqua, e quindi per questo lo hanno riconosciuto come membro dell'equipaggio, perché dice per avere l'acqua vuol dire che era... Invece lei sostiene, diciamo, che tutti gli scafisti si appoggiano a qualche persona che fa un po' da tramite tra i passeggeri, mettiamola così, e gli scafisti stessi, però non per questo chi fa da tramite perché magari conosce meglio la lingua, eccetera, debba essere considerato altrettanto alla stregua di uno scafista. Esatto, ma nel caso specifico non ha fatto neanche da tramite, perché è un ragazzo buono che ha visto qualcuno che aveva bisogno di acqua, gliel'ha solo offerta e basta, cioè non ha fatto altro. Scusi, ma sulla base di questo, sulla base di questo viene accusato, ripeto, l'accusa, non so se del suo assistito o uno degli altri tre, ed aveva addirittura chiuso il bocca porta, aver causato la morte di diversi migranti soffocati di fatto nella stiva. Allora, il capo di imputazione recita questo, però poi nel corso del processo diciamo che la vicenda è stata sviscerata meglio e sono stati chiariti alcuni contorni. Il boccaporto non è mai stato chiuso, però la barca era talmente stipata che le persone che stavano sotto e volevano risalire non potevano farlo, perché altrimenti avrebbero preso il posto di altri che stavano su, e certamente chi sta su non permette ad altri di prendere il suo posto, perché altrimenti muore, va a finire in acqua. Guardi, solo il racconto, io sono vagamente claustrofobico, solo il racconto mi ha esatto. Mi ha strozzato il respiro, perché gli ascoltatori forse dovrebbero ogni tanto immedesimarsi e capire che cosa vuol dire, io non lo so, ma solo dal suo racconto, cioè immaginate tutta una barca con talmente tanta gente che chi sta sotto in stiva vuol cercare di uscire, e chi sta sopra per una questione di sopravvivenza mia o tua, esatto, non ti fa salire, quelli sotto soffocano. Io non lo so se vi potete immaginare delle scene del genere. Ma infatti, guardi, io ho fatto tanti di questi processi e quello che emerge è proprio questo. Anch'io sono claustrofobica e sto male al solo pensiero. Tra l'altro io ho anche paura dell'acqua, quindi immaginarmi in mezzo al mare in un barcone fatiscente con 400 persone su, e appena uno si muove c'è la possibilità che il barcone si inabissi perché si capovolga, diciamo è davvero difficile stare con i nervi saldi, e questo ragazzo è stato con i nervi saldi perché ha cercato di mantenere la calma Ha cercato di aiutare, ha fatto solo questo. Però mi aiuti a capire, poi ci sentiremo nei prossimi giorni, perché questa vicenda, Di Maio dice, la finiremo positivamente per i nostri concittadini, ma chissà. Ma ci mancherebbe, ma guardi. Ma lei conferma che la Libia dice vogliamo in cambio la restituzione, uno scambio di persone, insomma, diciamo così? Sì, però secondo me è soltanto un atto dimostrativo, perché in Libia coloro che conoscono questi ragazzi, perché giocano nella squadra, in una delle squadre principali della Libia, è come se Totti fosse stato arrestato in Libia e condannato. Ecco. Cioè adesso lei lo paragona a Totti, adesso a parte che a Roma molti la manderanno, come dire, cioè, è uno di quegli affronti che per un romanista che non sono non deve mai fare. Però lei dice è come se noi avessimo tenuto in carcere, cioè se la Libia avesse messo in carcere Totti. Esatto, e quindi la società civile si mobilita, perché dice guarda che non è possibile che faccia parte di un'organizzazione criminale, perché fino a il giorno prima di partire era in squadra, si allenava, era un ragazzo normale, faceva una vita normale. Sì, ma guardi che noi italiani non credo che accetteremo uno scambio del genere, lei lo sa. No, ma ci mancherebbe. E a questo punto che succede? Cioè la Libia, secondo lei, visto che lei avrà contatti con la Libia, cosa dice? Sì, certo. Allora, io voglio premettere una cosa, è chiaro che non c'è paragone, cioè sono 18 padri di famiglia che non hanno commesso nessun reato, quindi appunto. È una proposta inattuabile, secondo me è soltanto un episodio dimostrativo per dire guardate che ci sono degli innocenti, leggetevi meglio le carte, solo quello, non credo che nessuno ci crede. Vabbè, veramente. Facciamo così, se li sente, dica di rilasciare questi 18 padri di famiglia e alla procura si prenderanno l'impegno di rileggere le carte, che però dicono di aver letto con molta attenzione, hanno fatto un processo, siamo in una democrazia. Per carità, sì. È successo in passato di uno scambio di persone abbastanza clamoroso, per cui per anni, credo un eritreo è stato scambiato per uno scafista. Sì. Processo Mered. Sì. Ecco, esatto, però non è che sempre finisce così, magari hanno preso in realtà le persone giuste. Io comunque, avvocato, la ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni, perché questa vicenda grazie continua. Ripeto, Cinzia Pecoraro è avvocato di uno dei 4 ragazzi libici che sono in carcere in Italia, con l'accusa gravissima di essere degli scafisti e omicidi anche per la loro condotta durante la traversata. La Libia dice ridateceli e noi vi ridiamo i 18 da Mazara del Vallo. Ma alle 9:24 minuti voglio cambiare tema introducendo un ospite, così. Oh, ma le gens sont grave, tu fais que tu vois tous les likes qu'on a eu? Vi faccio sentire un trailer in francese di un film francese che però c'è anche in Italia, che trovate su Netflix, in Italia lo trovate come Cuties. Voglio salutare Mattia Feltri. Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post, ma poi insomma mia lettura tutti i giorni quotidiana sulla stampa. Tanto non so, Mattia, se hai sentito la coda, ma abbiamo praticamente incarcerato Totti. Questo. Sì, no, ho sentito, però quella è una vicenda molto curiosa. Anche a me, ho sentito le ragioni dell'avvocato, che insomma di cui bisogna tenere conto, perché effettivamente quelli erano cacciatori professionisti. Si hanno riciclati come scafisti, può essere, ma è bizzarro. Certo, no, ma infatti è abbastanza incredibile, però vedremo. No, io però t'ho chiamato per questa vicenda sulla quale tu hai scritto qualche giorno fa, ma insomma si è mobilitata la rete, questo trailer di un film che io tra l'altro ho visto ieri a metà, perché poi non avevo molto. Tu sei riuscito ad arrivare fino alla fine? Ma sono arrivato fino alla fine perché ero sul divano con mia moglie e i miei figli, però non è il più grande capolavoro della storia della cinematografia. No, però non è neanche brutto, è la storia in Francia di una ragazzina figlia di immigrati, credo senegalesi, musulmana di famiglia, che incontra, e quindi con tutte le tradizioni di vestiti, un po' di quello non si fa, che incontra invece o incappa in una banda di dodicenni, ragazzine molto più spigliate anche nell'abbigliamento, che la convincono in qualche modo a ballare, ovviamente l'ostracismo della famiglia musulmana, insomma potete immaginare gli ingredienti sono questi. Ha fatto scalpore una locandina che peraltro Netflix ha ritirato chiedendo scusa, perché questa locandina, Mattia, secondo alcuni incitava in qualche modo, per alcuni addirittura, la pedofilia, no? perché esibiva dei corpi di undicenni. Tu hai scritto in maniera molto dura contro questa idea di giudicare ormai in maniera lampo, con troppo buonismo, ti chiedo? Ma non so se la parola giusta sia buonismo, perché il buonismo era un po' un'altra cosa, no? Era cercare di vedere il bello e il buono dappertutto, anche dove non c'era. E qui è il contrario, proprio il cattivismo, è un neopuritanesimo feroce, implacabile, per cui da una locandina, che può essere anche infelice, secondo me lo era solo fino a un certo punto, perché si vedono queste ragazzine un po' discinte, un po' attillate, l'impatto può essere, diciamo, duro, boh, non lo so, però poi se uno vede il film capisce perfettamente perché c'è quella locandina. Il problema è che non soltanto il film, ma anche la piattaforma, cioè Netflix, sono state giudicate, e le loro intenzioni sono state giudicate sulla base di una locandina. Cioè è come se io guardassi la fotografia di una partita e da lì stabilissi il risultato, i marcatori e le pagelle. Sì, tanto che è nata la campagna addirittura Cancel Netflix, con centinaia di migliaia di firme, non solo in Italia, a livello un po' europeo, a livello... Oltretutto, appunto, se uno... Certo, io mi rendo conto che il film dura, credo, 1 ora e 40, e per i tempi di oggi 1 ora e 40 è un impegno gravosissimo, no? Si fa una fatica nella vita anche a vedere un film, però se uno l'avesse visto si sarebbe accorto che è la storia di una ragazzina che, secondo me, è anche un messaggio un po' banale, a me sarebbe piaciuto qualcosa di un po' più complesso, ma insomma è stretta fra gli obblighi di una società musulmana, quindi che obbliga a coprire il corpo, obbliga a un contegno anche straordinario, quotidiano, tutto quello che sappiamo, e un'altra società che invece invita a ballare twerkando, no? Come sì, twerkando, sì, sì, sì. Adesso io spero di non dirla grossa, è una specie di sculettamento. Per beh, intendere. Sì, sì, sì, chi conosce Elettra Lamborghini, dai, su. Elettra Lamborghini, quindi con vestitini attillati, eccetera, e quindi fra queste due imposizioni di questa società, alla fine lei sceglie una sobrietà tutta sua, quindi un messaggio anche molto edificante, un po' banale. Tra l'altro la regista è una donna, quindi c'è anche da dire questo, non credo che volesse, come dire, brutalizzare. È una giovane regista francese di origini senegalese che racconta di una famiglia francese di origini senegalese, quindi insomma ci voleva proprio tutta. E poi noi sappiamo cosa succede, partono queste cose e ci si accoda subito, no? Sì. La logica della massa e del linciaggio raccontata in tanti libri, per cui uno si accoda alla massa, non sa nemmeno bene perché, ma almeno si va a menare. Ecco, questa è la riflessione un po' più profonda, al di là del film, che se volete guardatevelo o non guardatevelo, Netflix ha cambiato la locandina, ha chiesto scusa, ma certo, ma perché quando sei un'azienda e ti arrivano 700.000 firme che dicono cancelliamo l'abbonamento, tu chiedi scusa, cioè per non sbagliare chiedi scusa, ti inchini alla giapponese e dici... Insomma, se sei accerchiato da quelli col manganello, tu chiedi scusa. Ecco, questa è la riflessione più profonda. Perché tu, Mattia Feltri, hai voluto sottolineare proprio questo. Viviamo nell'era neanche dell'immediatezza, proprio del giudizio. Oddio, tu sei un ipergarantista, lo spieghi anche in questi giorni. No, io sono un garantista. Non sono ipergarantista. Garantista, vabbè. Senza iper. Un garantista, quindi seguo, diciamo, quelle che sono le regole costituzionali che ci siamo dati. Solo che da qui siamo saltati invece nell'era proprio del giudizio neanche immediato, proprio senza neanche documentarsi per molti. Ma guarda, vale, adesso non è che voglio dare la colpa semplicemente a questo popolo a cui appartengo naturalmente, che sta su Facebook, su Twitter, eccetera. È proprio una cosa che riguarda tutti. Guarda, qualche giorno fa, a proposito del povero Willy, una mia brava collega ha scritto che i familiari degli indagati, gli indagati sono, non ricordo più se 4 o 5, quindi sì, stiamo parlando di potenzialmente più di 100 persone, i familiari degli indagati hanno detto che hanno fatto, hanno solo ucciso un immigrato. È una frase che non risulta da nessuna parte, non si sa chi l'abbia detta, dove, come, quando, perché, in quale verbale stia, chi l'ha registrata, eccetera, è andata sul giornale. E si è scatenata la stessa identica cosa, sono stati fatti 7-8 editoriali su questa frase che non esiste, cioè è quello che dicevi tu vedi una cosa e in un lampo ti fai un giudizio, ma soprattutto vuoi che questo giudizio sia diffuso il più possibile, che arrivi ovunque, che sia il più spietato possibile, perché più spietato il giudizio, più buono sei tu. A me questo veramente è veramente la logica del linciaggio. Ecco, è l'immediatezza, però in quello che dici nella coda c'è un po' il senso. Tu oggi ci torni in qualche modo perché parli di pena di morte, e ci si accoda laddove il giudizio è spietato e duro e senza, come dire, senza ammissione, senza alcun tipo di dubbio. Cioè è anche questa la cosa, non ci si accoderebbe, non si accoderebbero le persone se il giudizio fosse così buono, tenero, equo, magnanimo, o se fosse semplicemente meditato. Meditato. Questo è assolutamente vero. Noi sappiamo che quello che ci attrae è la rutilanza, no? Quello che è luminoso, che è scioccante, scioccante alla vista, è quello che ti dà il colpo allo stomaco, quello è attraente. Guardare un film di 1 ora e 40 non è attraente perché è faticoso. Oddio, è diventato faticoso guardare un film? Spero di no, ma è proprio questo il concetto. Se tu vedi una frase attribuita ai parenti delle vittime e ti ci metti a lavorare 10 minuti, capisci che quella roba non esiste e quel giudizio non lo esprimi, ma non la fermi più quell'onda lì. È proprio diventata la logica della maggioranza, sì, in movimento e subbuglio, che ha ragione. E anzi, e questo è spaventoso. E anzi, se cerchi minimamente di opporti, vieni travolto con... Ne sappiamo qualcosa. Vieni travolto. Mattia, io ti ringrazio. Mattia Feltri, grazie di essere qui, direttore dell'Huffington Post. Ma buongiorno, buongiorno anche sulla stampa. E, come dire, fate le vostre considerazioni all'800240024 o al 349-238-6666. Attenzione, si è espresso il sindaco di Milano Beppe Sala, non dopo che io ho parlato, ovviamente il post è di ieri sera, dopo che c'è stato questo incidente purtroppo grave che ha coinvolto uno in monopattino e un automobilista, solo che l'automobilista non si è fatto nulla. Il monopattino elettrico si sta diffondendo in tutte le grandi città internazionali. Ciò che però vedo, come me tutti i milanesi, sono comportamenti tutt'altro che esemplari nell'utilizzo di questi veicoli. Sta parlando con te, Fusconi, nell'utilizzo dei veicoli, non delle macchine, che vengono sanzionate. Tipo, in due in monopattino. Li ho visti ieri. Papà e figlia, andiamo a scuola! È illegale. Cioè in due, andiamo a scuola, che bello, col papà in monopattino elettrico, è una violazione del codice della strada, però non gliele fotte perché è un monopattino. Poi percorrere le strade contromano, guidare sul marciapiede, il parcheggio disordinato, sì, i monopattini, quelli non di proprietà, quelli del comune o quelli di società, vengono abbandonati anche in verticale, anche buttati nei navigli, questo non ancora, ma succederà. Vabbè, basta, la mia crociata contro i monopattini è finita, perché non ce l'ho contro i monopattini, ma contro un sistema di viabilità che non è così facile. È entrata Fusconi in monopattino, giuro, fa un giro in monopattino, attenta che mi prendi la caviglia, andiamo in pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, io ti chiedo solamente una cosa per il tuo programma. Basta intervistare avvocati difensori. Basta. Non intervistare più avvocati difensori. O altrimenti raccogli le loro testimonianze e scrivi un libro di barzellette. Ma pensate una cosa, a Bengasi c'è il governo illegittimo, almeno secondo gli standard internazionali è illegittimo. Allora, questo governo illegittimo fa catturare 18 marinai italiani, dei pescherecci, pretende il rilascio di 4 accusati di essere degli scafisti e lo fa per delle persone che non contano niente, che non sono nessuno, ma vi rendete conto? Pensate che siamo tutti stupidi, le persone? Ma è evidente che questi 4 sono importanti per il governo di Bengasi, e siccome il governo di Bengasi è direttamente coinvolto in quello che è il traffico di migranti, almeno questo è quello che si legge, no? È evidente che questa gente è coinvolta. Va bene, il pensiero dei nostri ascoltatori. Io vorrei, sogno un Leonardo Manera che arriva qui in monopattino. Buongiorno. come va? Oh, mi trovo oggi in una, trasmetto da un'area di servizio. Sono all'area di servizio Castagnolo. Come in un'area di servizio? Scusa. Sì. Perché sì, sei sì. in un'area di servizio? Ma sento infatti il sottofondo. Ma come mai? Tra l'altro l'area di servizio Castagnolo è anche nei pressi dell'aeroporto, di un aeroporto, quindi può darsi che ogni tanto possiate sentire poi in sottofondo il rumore di qualche aereo che andrà a coprire la voce o anche disturberà la trasmissione. Questo è l'alpino. Lo dico in anticipo per non essere poi accusato dopo di creare problemi. Ma stai mangiando mezza brioche? Ma intervista qualcuno? Ma dove sei fisicamente nella macchina? Sono nell'area di servizio. Sono nell'area di servizio Castagnolo. Sì, l'hai già detto questo. In bagno? No. Ho trovato una di quelle aree di servizio che fuori hanno anche quei tavolini di marmo con le panchine di marmo. Sono seduto su una panchina di marmo dell'area di servizio Castagnolo. Intervista a distanza qualcuno, fai mandare un urlo. Vuole mandare un urlo per Radio 24? Ma guarda, qui al momento intorno a me vedo solo, mi sembrano dei tedeschi. E quindi non credo che... Intervista lì in tedesco, il problema c'è. No, sono qui pronto a fare la trasmissione, non voglio, ho solo detto che qualora ci fossero dei rumori di fondo o sono dei camion che arrivano o è qualche aereo che sta decollando dall'aeroporto adesso, si trova qui nei pressi. No, ma adesso ragazzi, se qualcuno però se qualcuno in ascolto, fosse all'ascolto se qualcuno, e passa dall'area di servizio Castagnolo mi vede, perché io sono qui col computer sul tavolino di marmo, può venire e offrirmi una brioche. Eccolo là! Ma vi prego, cari, molti ci ascoltano in viaggio, in movimento. Dai, fermatevi un attimo. Attenzione però, che direzione sei? Esatto. E vedi che arriva allora. Subito, chiedete a Manera, area est o ovest? Cioè stai tornando sono a Milano. Sono in direzione nord, sto tornando verso Milano, sì. Quindi sta tornando verso Milano, perfetto. L'area di servizio che c'è nei pressi di Livorno, quindi amici livornesi che oggi siete a casa e non sapete cosa fare, probabilmente siete lì a girarvi i pollici, prendete l'autostrada e venite qui alla... Cioè, quindi, ovviamente qui. Se prendete l'autostrada per questa cosa lui vi pagherà il biglietto, il pedaggio autostradale per questa, quindi presentatevi in 100-150 per favore, così almeno Ecco. Prendete l'autostrada e venite qui all'area di servizio Castagnolo e potete offrirmi una corposa colazione. Signore, avete tempo fino alle 11, eh? Ricordate, avete tempo fino alle 11 per presentarvi all'area di servizio dove c'è il buon Leonardo Manera. Castagnolo. Castagnolo, così proprio si chiama, Castagnolo. Caccia un urlo a un camionista, così magari ti scambia per uno che lo insulti. Sta arrivando adesso un camion, lungo, grosso. Non so se sente il rumore in sottofondo. Vabbè, comunque adesso non voglio disturbare, essere invadente. Prego, fate pure l'altra. Si chiama Renato. Renato è il nome... Dai, ma intervista! È arrivato il primo che mi ha offerto la brioche. Signor Renato, io offro lei la brioche. No, te la apro io, dai. Allora, io rimango seduto qua al tavolino. Va a prendere la brioche e me la porta. Ragazzi, è meravigliosa. Grazie, questa cosa. Cosa ne pensa di Alessandro Milan? A lei piace? Suona Renato il clacson, fagli fare una clacsonata. Dice se può suonare il clacson, Renato. Grande, Renato. Oh, ragazzi, in tempo zero, i nostri ascoltatori sono ovunque. Ma che meraviglia, ma questo è meglio di... Cioè, se l'avessimo organizzata, se avessimo passato un centone a Renato, non sarebbe venuta così bene. È stupendo, Renato, un grande abbraccio. Poi quando ti offre la brioche voglio sapere tutto di Renato, adesso cosa fa. Ha appena parcheggiato il suo camion e adesso immagino che andrà a prendermi la brioche. Comunque hai già fatto un primo danno, Leonardo, te lo dico, perché arriva l'ascoltatore e dice ma che Livorno è Pisa, ora i pisani ti menano. Cioè praticamente hai dato ai pisani dei livornesi, che non è il massimo. Sarà anche provincia di Pisa, ma la città più vicina è Livorno, quindi ha sbagliato l'amico all'ascolto. Va bene. Ecco, io ho detto che l'area di servizio è nei pressi di Livorno, ed è vero, perché Livorno è la prossima, è l'uscita subito precedente. Un altro ascoltatore, Manera, lascia pagato, io passo alle 14. Cosa vuoi, ascoltatore, che ti lascia pagato... Un caffè. Io sono quello che deve ricevere, non è quello che devo pagare per tutti. Intanto hai già trovato. Radio 24 non mi paga molto. Quindi, si sta lamentando. Sì. Direttore sì, qualcuno. Comunque c'è Renato che adesso arriverà col suo cornetto. Allora andiamo al traffico e poi sentiamo Renato. Se c'è Renato, dopo il traffico, sei autorizzato a rinviare il tuo pezzo alle 10.05. Solo se Renato si affretta, va bene? D'accordo, Leo. Facciamo che se Renato arriva rimando il pezzo a domani, va bene, così me lo conservo per domani. Vabbè, ragazzi, sei uno scansafatiche, mamma mia. Traffico. Maniera fantastica. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Milan, sono Antonio da Castel San Giovanni, provincia di Piacenza. Piacenza facciamo di più, si girano in tre col motorino, col monopattino, pardon. E con la bambina abbracciata al papà davanti in precario equilibrio, siamo molto avanti. Purtroppo sta diventando un problema, per essere seri. Ma pensate una cosa, a Bengasi c'è il governo illegittimo, almeno secondo gli standard internazionali è illegittimo. Allora, questo governo illegittimo fa catturare 18 marinai italiani, dei pescherecci, pretende il rilascio di 4 accusati di essere degli scafisti, e lo fa per delle persone che non contano niente, che non sono nessuno, ma vi rendete conto? Pensate che siamo tutti stupidi, le persone? Ma è evidente che questi 4 sono importanti per il governo di Bengasi. Questo l'abbiamo già mandato, l'abbiamo rimandato, perché così vogliamo ribadire il concetto di un nostro ascoltatore. Allora, Leonardo Manera è nell'area. Allora, sì. Sono arrivati altri due viaggiatori, padre e figlio, che si chiamano? Siriano. Siriano? Sì. Ma il nome o la provenienza? È il nome. Come mai? È così. Un nome anomalo, ma perché aveva dei genitori siriani? No. Ha una passione per la Siria, i suoi genitori. Come mai questa passione per la Siria? Non lo so. Lei è siriano? Io siriano. E tu? Pier Giorgio. Come mai non ti hanno dato un nome siriano, tunisino così? Tunisino, non lo so. Allora, ci dicono che qui la città più... Ma lei è contento di chiamarsi siriano? Sì. Ha creato dei problemi nella vita? No, anzi mi fa pubblicità, mi fa. Sì, dico, però questa cosa sì. Siria si ricorda... Non ti paga più la mezza brioche se insisti ancora un po', caro... Ma non è Renato, è un altro signore. No, certo, quindi sono già 3 ascoltatori. Ragazzi, ma questo dobbiamo farlo tutti i giorni. Leonardo, devi andare in giro per l'Italia e... In autogrill. No, in autogrill, tra l'altro, scusate... Perché ormai voi siete in giro, voi due? Facciamo gli idraulici. Ah, fate gli idraulici. È vero che facendo idraulico si ha possibilità di avere rapporti sessuali a ripetizione? Ma per ora tutte vecchie. Tutte vecchie? In che senso? Vecchie. Ma caro siriano, cosa dice? Cosa dice? Sì, ma anche siriano qui è una certa età, lei cosa avrà, una sessantina? No, che c'è stato? Dimostra un po' di più. Riesce ancora a avere rapporti o comincia ad avere qualche difficoltà? Ci provo. Leonardo, sappi che è un ascoltatore. Un ascoltatore ci scrive che è una nota area di servizio per scambisti. Così giusto, non lo so. Castagnolo è un'area di servizio per scambisti. Lei ne sa qualcosa? No, questo non lo sapevo. Il figlio ne sa qualcosa? Assolutamente niente. Ma tu invece hai scelto di fare l'idraulico per quella leggenda che dice. Per quella leggenda, voglio sfatare questo mito. Non succede mai? Per ora no. Però secondo vediamo un po'. A tuo padre sarà capitato in altri tempi. C'è un motivo, no? Se no non si chiamava trombaio, no? Eccolo. Ecco il idraulico, si chiama trombaio. Ah, non lo sapevo. Qui in Toscana si dice trombaio, quello che ha. Esatto. E a lei è capitato in passato, sì. No, erano altre generazioni. Quando è l'ultima? Lei è sposato? Sì. Quante volte ha tradito sua moglie? Mai. Non è, adesso, a parte questa bugia. Mai. Quando l'è capitato? Mai. Con qualche cliente? Mai. Le sarà capitato sicuramente? Mai. Allora diciamo che lei si è... Lavoro sporco ci penso io. A fare il lavoro sporco ci pensa il figlio. Vabbè, guardate come Leonardo Manera ha già dimenticato Renato, che è lì solo per offrirgli una brioche, perché è un volta gabbana il buon Leonardo. Comunque no, ripetiamo. L'ultima cosa poi li lascio andare. Ripetiamo dove sei poi, perché così arriva magari qualcuno. Area di servizio Castagnolo. Direzione lei Milano. Consiglia, siccome adesso ci sono sempre meno persone che vogliono fare lavori idraulico, elettricista, ci dica una cosa bella per cui fare questo lavoro, per cui lo consiglierebbe ai giovani, oppure ce lo puoi dire tu, una cosa bella che ti piace di questo lavoro. Sta in silenzio, come mai? Alla fine non si dà soddisfazione aiutare sempre le persone in difficoltà, e non è una cosa che fanno tutti. Alla fine, nei giorni d'oggi non lo fanno tutti idraulico. Bello, però aiutate perché vi pagano, non lo fate per come opera umanitaria. Alla fine non si vive sempre solo di pane, come mi ha insegnato mio padre. Alla fine si vive anche. Qual è l'insegnamento più bello che ti ha dato tuo padre nella vita? Che bisogna sempre trombare. Ecco, eccolo là. Mi sembra un messaggio. Allora, per la zanzara è tutto, anche oggi alle 9.51 possiamo finire qui. No, tra l'altro, puoi dire all'idraulico che ieri grazie, con grande orgoglio siriano e il figlio che si chiama Pier Giorgio. Siriane Pier Giorgio, grazie. Ricordiamo che Leonardo Manera si trova, per imprescrutabili motivi che non abbiamo spiegato e che non spiegheremo sicuramente, nell'area di servizio Castagnolo. In direzione Milano, e ha chiesto di alle persone in direzione Genova, giustamente, sì, uno ci dice direzione Genova, vabbè, sta tornando a Milano, dai, ci siamo capiti, cari ascoltatori. Sono pignoli, veramente sono più pignoli di te, e invita le persone se vogliono a andare a trovarlo. Per ora sono arrivati un idraulico, il figlio, e Renato che è entrato in auto, nell'area di servizio, ma ancora non è uscito. Ti offro la brioche ma sta Renato arrivando, vedo da lontano Renato. Sta arrivando con un sacchettino, però ci vorrà ancora qualche minuto perché cammina molto lentamente. Volevo dire che ieri, potevi dire all'idraulico, mi si è rotta la chiusura del bidet, sai quando si rompe, per cui sono riuscito con la ventosa a tirarlo fuori. Si chiama il tappo. Sono riuscito ad andare a comprarlo e a sostituire il meccanismo. Qui. Il meccanismo, vabbè, interessa molto questa mia cosa. Io ieri ero tutto tronfio di me, mi sentivo un idraulico veramente da. Quello si chiama tappo salterino. Sì. Ti informo. Vedi che io ho una conoscenza enciclopedica, una cultura enciclopedica anche per quanto riguarda i problemi di quel tipo. È arrivato Renato. Grazie Renato. Che mi ha ritardo. Allora, grazie Renato. No, vabbè. Vuole salutare Alessandro Milan. Ah, mi ha portato anche il cappuccino, gentilissimo Renato. No, vabbè, ma ragazzi, voi vi rendete conto per che cosa lavora Leonardo Manera per avere cappuccino e brioche? Grazie. Grande Renato. Renato. È tutta diretta, vuole salutare... è tutta vita. Sì, vuole salutare Alessandro Milan, Renato. Senz'altro. Renato. Buona giornata, signor Milan. Grande Renato. Che cosa fai? L'autotrasportatore? Trasporta carburante. Le è mai capitato di avere dei problemi? Tipo le hanno rubato il camion, le hanno sottratto carburante? Fortunatamente sono uno di quelli fortunati. In maniera ha simulato problemi, lei qualche furto per poter incassare l'assicurazione, cose così? Ha mai fatto qualche cosa non proprio lecita? Qualche volta le sarà capitato? No, ma comunque mai. A parte questo... È un dipendente oppure? Se è indipendente apposta allora non è... Cerca di essere, però avrà fatto qualche cosa di illegale nella vita, qualche furto. Cioè, e ti ha appena offerto brioche e cappuccio. Ma Renato, ma perché non lo tratti come tratteresti uno che ti taglia la strada in autostrada? Renato sta andando a Milano a consegnare il carburante. Ma cosa? Vado a caricare. Ah, va a caricare carburante. A Trecate, vicino a Novara. Bravo. Ma che carburante è? Benzina, diesel? No, è olio combustibile. Olio combustibile, per cosa si usa? Per le caldaie? Sì, per le caldaie, per far andare avanti le navi. Per le navi? Sì. Io ho una barca. Ma non è vero. Me ne può regalare ma sei un cialtrone. Ma non è vero. Ma non è vero, Renato! Ma dica qualcosa! Ma poi magari lo rivendo, lo posso rivendere un po' al mercato nero. Va bene, Renato. Purtroppo non ci va niente. È stato veramente gentile, Renato. Per carità, Leonardo. Qual è la trasmissione che le piace meno di Radio 24? Ecco. Ma oddio, non, perché io ho varie stazioni, io adesso sento Radio 24, poi cambio, vado a sentire Luca Barbarossa, poi quando ricambio guardo adesso perché non c'è un giorno di pecora, se lo sento quello, vado... Però le capita ogni tanto di ascoltare noi. La sera sento Barisoni, poi c'è la Zanzara, eccetera. Ogni tanto le capita di ascoltare noi. A voi sempre. Ci faccio uno spot, dica agli ascoltatori perché vale la pena di ascoltare Siete tutti simpatici. Grande Renato. Cose dette giuste, serie, va benissimo. Grazie Renato, gentilissimo anche per la colazione. Grazie. Buon viaggio. Ma a me, Leonardo, mi tieni mezza brioche di Renato, ovviamente? Me la porti domani? Ok. Sì, domani porto mezza brioche di quella che mi ha dato Renato. Va bene. Comunque, cari ascoltatori, se volete, Leonardo, è lì ti fermi fino alle 11, ovviamente, o ci vuoi mollare? Sì, area di servizio Castagnolo. Hai visto che siamo riusciti anche a non farti fare il pezzo. Poi, tra l'altro, alle 10.05 abbiamo un ospite, la mitica dottoressa Platto da Wuhan, torna con noi. Poi abbiamo un ospite alle 10.15, abbiamo anche un ospite alle 10.30, quindi forse riesci a tenere il pezzo fino a domani. Ottimo, così adesso poi quando torno a casa non devo rimettermi a scrivere, che è una vera condanna tutti i giorni. Ragazzi, ma voi vi rendete conto? Cioè, ma quanti di voi vanno al lavoro, si ritrovano un camionista che si ferma, gli offre cappuccio e brioche e si lamenta che deve lavorare? Ma voi, se incontrate Leonardo Manera all'area di servizio Castagnolo, ma una schicchera alle orecchie, non gliela date? Una schicchera alle orecchie, così. Dai, fermatevi e andate a trovare Leonardo, che è un po' come andare in diretta. Siamo qui. Intanto la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce. Il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Uno, nessuno, 100.000. Che bello. Caro Milan, ma scusate un attimo, il lavoro dell'idraulico in dialetto milanese si chiama il trombè, quindi il trombè è buon intenditor poche parole. Sì, infatti. Manera, ho appena fatto colazione in quell'area di servizio a Castagnolo. Brioche, cappuccio e un succo di frutta. Siccome ti ho visto seduto sul tavolino, ho lasciato detto al gestore del bar che pagavi tu, che sono un tuo amico. Quindi prima di andartene ricordati, passa a pagare. Secondo me è vero. Secondo me è peraltro vero. Vero. Puoi andare ad appurare, finita la trasmissione, Leonardo, se hai un cappuccio da pagare. È passato un altro camionista che ci ha salutati, diretto a Trecate, anche lui consegnando del materiale inerte. Tutti a Trecate vanno, anche Renato andava tutti a Trecate. Sì. Siamo sicuri che non c'è un raduno di camionisti oggi a Trecate? Io sono sempre qui, area di servizio Castagnolo, pronto a ricevere Castagnolo. I vostri doni qualora voleste portarmi qualche regalino, di qualsiasi tipo. C'è chi ti offre cornetto e cappuccio. Sì, ma ragazzi, non è che può bere 70 cappucci al giorno. Infatti, ho dato qualche regalino, se volete anche fare una colletta. No, ma un ascoltatore dice in cambio di una battuta sul fluoro. Ecco, caro ascoltatore, no. No, perché se dopo mi si maldispone, Leonardo, se no. Vabbè. No. È una cosa di tanti anni fa, quindi vivo come un ricordo. Ecco. Un bel ricordo. Cari ascoltatori, però alle 19 minuti, voi lo sapete che noi abbiamo un'amica, ci permettiamo di usare questa parola anche se non ci siamo mai incontrati, se non virtualmente qui al telefono, ma noi siamo stati tra i primi a chiamare da Wuhan tanti mesi fa, quando nessuno parlava di coronavirus, quando sembrava una roba cinese. Noi chiamammo Sara Platto, che insegna all'università, che insegna comportamento e benessere degli animali, è anche consulente scientifica per una fondazione sulla biodiversità, ed è adesso in libreria con un libro in Italia, Buongiorno Wuhan, per De Agostini. Sara Platto, come sta? Buongiorno a voi, Mr. Milan. Come va? Bene, le devo dire una cosa prima, sì, allora, perché mi fa tanto ridere. Allora, mentre lei mi sta intervistando ora, sì? Ci sono qui due giornalisti della CCTV che stanno... E si dice registrandomi mentre lei mi intervista. Che è la TV cinese, esatto, di Stato. Perché mi stanno seguendo per due giorni, perché stanno girando un documentario sulla mia vita. Allora, so, dica subito, che così rimane nelle registrazioni. Su Rai News 24, no, Radio 24, quello è Radio 24, giusto? Perché... Sorry, Radio 24, Mr. Milan, uno. Nessuno. 100.000. Brava Ale, che così rimane agli annali. No, giustamente. Allora, Buongiorno Wuhan, cioè che cos'è? Un racconto di questo delirio che ha passato in questi mesi, immagino, no? Sì, ma non solo, è anche è la storia vista dagli occhi di mio figlio, sì. Ma è anche un po' che cosa vuol dire essere un ragazzo straniero che è nato e cresciuto in Cina, parla tre lingue e quindi si barcamena attraverso diverse realtà. E ovviamente c'è la parte centrale del libro che è concentrata sul lockdown, su come l'abbiamo vissuto, sulla solidarietà che abbiamo ricevuto dai nostri vicini, mm-hmm. Il gruppo dei survivors, italiani rimasti a Wuhan, e poi c'è un finale che io considero catartico, almeno per quanto riguarda mio figlio e secondo me anche per tanti ragazzi della, che hanno la stessa età di mio figlio e boh. Un finale, perché abbiamo raccontato la scorsa volta, adesso lentamente, è bello anche il titolo, Buongiorno Juan, cioè si sta riprendendo, sì. Adesso le scuole sono riaperte, sì. Non ci sono più casi, cioè com'è la situazione? No. No, basta. No, di casi, no, almeno qui a Wuhan non ci sono, per cui siamo tranquilli. E il titolo Buongiorno Wuhan è nato perché durante il lockdown ogni mattina il primo messaggio che io mettevo sulla chat dei survivor era Good morning Wuhan, Buongiorno Wuhan, quindi da lì è nato il titolo del libro. È certo. Ma non è, Leonardo, le regole sono ancora stringenti come prima, quindi mascherine, sanificazione, tutto quanto, oppure c'è un po' più libertà? Sì, siamo ancora mascherati. Mascherati, sanificati, tutto quanto. Eh sì. Ma anche all'aperto no? Ma nel senso che la mascherina, per esempio, adesso io sono fuori perché c'è mio figlio che sta facendo la lezione di batteria e la mascherina io ce l'ho, però l'ho abbassata perché non c'è nessuno intorno a me, per cui sono, cioè, senso, sono all'esterno, però se quando rientro all'interno della scuola di musica devo rimettermela. Questo sì, no, però se si passeggia per strada non c'è bisogno, se si mantiene il distanziamento. No, la si può tenere abbassata, certo. Tanta gente lo tiene, nel senso, però se si vuole la si può abbassare, nel senso che quando si cammina fuori non c'è l'obbligo. La scorsa volta Sara Platto ci ha dato uno straordinario slogan molto sintetico di quando parlavamo quando parlavamo delle scuole in Italia, le scuole, ma se uno non fa il sierologico e se non lo fa in Cina, e Sara Platto ci ha detto no, se non lo fai bye bye. Quindi, nuovo slogan. Quindi lì le scuole non chiudono, non ci sono casi, per ora va tutto bene? Abbiamo superato le 2 settimane canoniche e non c'è nulla al momento, per cui andiamo avanti così. Tra l'altro, non so se sapete, adesso i primi di ottobre ci sono le vacanze, c'è una settimana di vacanza per la festa nazionale e ci sono già uscite appunto le normative, per cui la legge dice che se si esce dalla città o comunque dall'Hubei o da altre province, ogni provincia ha la sua, diciamo così, legislazione, i bambini poi quando ritornano devono farsi 2 settimane di quarantena. Sennò c'è il rischio di riportare il virus. Esatto. Quindi suppongo. Così? Di sera, dicevo, gli spettacoli come sono? Sono riprese la vita, diciamo, notturna anche nei locali, sì, nei teatri? La vita notturna è ripresa. Nei teatri non lo so, perché non frequenta, lascia Leonardo Manera in teatro. No, nel senso che il teatro cinese magari 3 ore di... No, è un po' dura. Ma esatto. Lei sa il cinese, sa il mandarino, se si sa... No, è mio figlio che è madrelingua cinese. Ah. Io me la cavo, nel senso, me la cavo con la quotidianità, sì, nel senso che non ho difficoltà in quello, ma non in conversazioni, diciamo così... dato livello, riesco a gestirmi la spesa, il taxi, eccetera. Vabbè, non ho avuto tempo per studiarlo. Ma alla fine di tutto questo, secondo lei, a Wuhan, che cosa avete imparato? Che magari servirà anche a noi quando ne usciremo definitivamente. Ma allora, io quello che, nel senso che abbiamo imparato, io parlo per me stessa, ok? La cosa che io ho visto in generale è che questa epidemia ci ha ridimensionato tantissimo. Una cosa che ho notato, per esempio, durante il lockdown, non so, le grandi imprese, i grandi supermercati, era tutto chiuso. E quello che invece ha sostenuto la città sono stati i piccoli agricoltori, piccolissimi negozianti che sono mossi per trasportare cibo ai compound, eccetera. Quindi la cosa che almeno che io ho visto è che è la comunità su cui dobbiamo, diciamo così, fare affidamento, non al grande, alla continua espansione, ma in certi modi cioè ridimensionarci e fare affidamento e soprattutto apprezzare proprio la comunità, le cose piccole. Beh, che è un qualcosa che secondo molti si potrebbe estendere su scala planetaria, secondo altri no, essendoci una globalizzazione ormai così estesa. Beh, nel senso che un po' il mondo in seguito a questa epidemia si è, diciamo, leggermente ristretto, perché ovviamente, nel senso, io penso sempre che negli ultimi 30 e 40 anni si è avuto una globalizzazione allucinante e ci siamo dimenticati purtroppo del fattore natura. E questa epidemia, che tra l'altro è annunciatissima, perché va bene, la gente non lo sa, ma su articoli scientifici da 20-30 anni continuavano a dirlo, che bisogna stare attenti perché altrimenti qualcosa succederà, ed è successo. La natura ci ha in qualche modo ridimensionato. Sì, la natura, questo stile di vita, senza dubbio è così. Abbiamo citato varie volte David Quammen, no? Di Spillover, che racconta proprio sì, questo. Sì. No, ma la natura, nel senso che, allora, che cosa succede quando si ha una specie che si espande in maniera eccessiva? La natura ha dei meccanismi per riportarla entro i limiti stabiliti, entro l'omeostasi, l'equilibrio. E così quello che è successo. Mm-hmm. Ecco, è successo fondamentalmente. Va bene, Sara Platt, la lasciamo alla TV cinese. Un'ultima domanda. Leo. Il mercato umido a Wuhan c'è sempre? Ha riaperto ed è come prima? Wet market. Il mercato cosa, scusi? I wet market. Ma allora i wet market. Il wet market è un mercato rionale, sì. Nel senso che si chiamano wet market perché i polli, i conigli, insomma gli animali vengono macellati sul posto e poi il pavimento viene lavato con l'acqua e quindi il pavimento rimane bagnato, da qui wet market. Ma sono mercati rionali dove vendono la frutta, la verdura, la carne. Poi in alcuni, purtroppo, adesso la legislazione si è, diciamo, altamente ristretta per quanto riguarda gli animali selvatici, per cui adesso sono, diciamo così, assolutamente vietato. Certo. Ovviamente c'è sempre qualcuno che sicuramente non ascolterà, ma non solo in Cina, ovunque, ok? E sotto banco lo farà ancora. Però ecco, come ripeto, il wet market non è il mercato dove vendono solo gli animali selvatici, è un mercato rionale. È un mercato in generale. No, è un mercato rionale. Chiaro. Purtroppo, sfortunatamente, c'è certa gente che sotto banco vende cose che non dovrebbe vendere. Certo. Va bene, Sara Platto, grazie da Wuhan. Buongiorno Wuhan, lo trovate anche per De Agostini in libreria. Andiamo al traffico, un po' in ritardo, ma ci siamo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Manera, sei un giornalista inopportuno, impertinente e opportunista, però ti vogliamo bene lo stesso, sei troppo forte. Qualcuno dia un coppino a Manera, per favore, offro la colazione a chi dà un coppino a Manera. Beh, non è male questo, Alino, inopportuno. Io Leo lo incontrai alla stazione di Rimini lo scorso anno in occasione di Ecomondo. Ah, sì, sì. Era pallido, confuso. Non sapeva da dove iniziasse la fila per i taxi. L'ho aiutato, è stato un grande momento. Ciao, venga, Leo. Venga, ciao, buon uomo, venga, buon uomo, Manera. Allora, questo è vero, confermo, ero alla stazione di Rimini, ma alla stazione di Rimini non si capisce. Non ero alla stazione, ero alla fiera di Rimini. Non si capisce bene alla fiera di Rimini. Ma guarda, il signore lo capisce benissimo, ti ha preso per mano, no, ti ha condotto. Cioè. No, non è vero. So che anche Deborah Rosciani e Mauro Meazza c'erano anche loro, hanno avuto difficoltà a capire dove erano i taxi, quindi non era un problema solo mio. Comunque Leonardo si trova ora alla stazione di servizio Castagnolo, direzione Genova, insomma sta tornando a Milano, fermatevi lì e fategli un coppino, chiede un ascoltatore, e caffè pagato per tutti. Fammi sentire Vittoria da Milano, buongiorno Vittoria. Buongiorno, Le devo dire subito che la sua trasmissione è una delle più carine e simpatiche che io ho. Grazie. Possiamo chiudere la telefonata qui, Vittoria. La ringraziamo molto. No, chiudiamola qui allora con questi complimenti reciproci. Basta. Beh, anche Manera è molto simpatico. Sì, nonostante tutto, nonostante faccia di tutto per rendersi antipatico, certe volte riesce lo stesso a piacere. Comunque, a parte questi complimenti che poi sono veramente sinceri, volevo dire la mia sul traffico di Milano, sulle biciclette, i monopattini, le moto, tutto quanto è parcheggiato sui marciapiedi. Sì. Io sono stufa di essere un pedone, una che usa molto i mezzi pubblici, ho la macchina in box ma non la uso quasi mai se non per le spese grosse. Quindi mi trovo veramente in difficoltà con tutti sti motociclisti, monopattini e compagnia bella che sfrecciano sui marciapiedi che mi arrivano. Sbagliano sui marciapiedi, è vietato. Sai che la sento malissimo. No, è vietato sui marciapiedi. Sarà vietato, ma qui se ne fregano tutti. È vero, i vigili non esistono, i famosi vigili che dovevano controllare il traffico di Corso Venezia si sono visti un giorno. E poi sono spariti. No, no, ma è chiaro, lei, signora Vittoria, l'altro giorno ho aperto il portone di Viale Monza per scendere, proprio sono sul marciapiede, appena l'ho aperto, vum, mi è sfrecciato un monopattino, se fossi uscito mezzo secondo prima sicuramente mi avrebbe travolto, perché è vietato, è così. Però, a proposito di vigili urbani, Vittoria, senta questa, andiamo a Napoli, generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Locale di Napoli, buongiorno generale, eccoci qua. Buongiorno a voi. E grazie di essere qui, perché abbiamo scoperto dai giornali, ma saprà dire lei i numeri senza violare la privacy, qualcuno dice 150 vigili in quarantena, perché 14 di loro sarebbero stati contagiati in una tavolata, dove tra l'altro si parla di non rispetto delle regole. Però, comandante, che dice lei? Normalmente ogni tanto qualche fake news riguarda anche noi, non c'è nessun collegamento da nessuna tavolata e purtroppo i contagiati. La polizia locale napoletana, ma di tutta Italia, da febbraio non si è fermato un attimo, è stato in prima linea per le misure di contrasto al Covid e chiaramente noi siamo una categoria a rischio per il tipo di attività che facciamo. E purtroppo si è verificato che in una unità operativa, devo dire in passato abbiamo avuto dei casi, ma un caso sempre portato dall'esterno, ovviamente dalla vita privata, ma con le procedure che ci sono, i protocolli che sono stati indicati sia dal Ministero della Sanità ma anche dalle varie procedure stabilite, ce la siamo sempre cavata bene, perché immediatamente abbiamo messo in sicurezza tutti. In questa circostanza particolare invece è stata, dopo il primo tampone ci siamo accorti che anche altri dipendenti sono risultati positivi, in tutto 12. 12 positivi, e quindi insomma ce ne sono 150 in quarantena. E quindi abbiamo dovuto fare l'abbiamo trattato come un cluster, come un focolaio. Insieme all'ASL, alla direzione di ASL Napoli 1, abbiamo preferito andare ben oltre i protocolli per mettere in sicurezza sia gli operatori ma la cittadinanza. Però lei, comandante, smentisce, perché i giornali dicono che è nato tutto forse da una tavolata. Ma infatti partirà adesso una PEC perché questa cosa è rimbalzata su Rai 2, quindi chiederò una rettifica su TG2. E la stessa cosa purtroppo un giornale cittadino, alle volte purtroppo vengono date delle notizie, per nessun collegamento c'è tra i 12 che hanno avuto questa cosa, è una presunta tavolata o quant'altro. Sicuramente tavolate poi noi all'interno delle parti non ne facciamo, abbiamo ben altro da fare. Nella vita privata non è vietato andare al ristorante, quindi io non so se qualcuno è andato al ristorante a mangiarsi una pizza, ma è una cosa che non è vietata. Infatti. E quindi voglio dire, una volta che si termina il servizio si diventa un privato cittadino, non è che ci mettiamo a seguire i nostri dipendenti. No, quindi lei dice purtroppo il focolaio c'è, ma non stiamo a cercare. E io su questo sono d'accordo, andare a vedere ma quello ha tenuto il se no si diventa questurini, come diciamo sempre con Manera. Si evidenzia una cosa positiva che devo dire che deve essere messa, la gestione dell'emergenza, perché è stata una palestra con i casi singoli, e in questo caso insieme alla grande collaborazione istituzionale con l'ASL Napoli Centro, siamo riusciti praticamente a mettere subito in sicurezza, chiudere il reparto che è stato sanificato, tutti i veicoli sanificati, tutti, una volta che abbiamo visto che c'erano più positivi, sono stati tutti quanti tamponati, tutti a 150 dipendenti, 147 dipendenti. E siamo in attesa, c'è una riunione in corso, perché abbiamo costruito ovviamente a ritroso i contatti, quindi rimarranno contatti stretti una 70 persone, quindi oltre 12 positivi, mentre potranno ritornare in servizio una sessantina di unità a partire da domani. Siamo in attesa di via libera da parte dell'ASL e quindi di aprire le parti. È stata gestita con molta professionalità tempestività, quindi questo va evidenziato. Poi le altre cose su chiacchiere che non trovano veramente nessun discorso. Ma noi abbiamo chiarito, grazie comandante. Leonardo, c'è sempre questo fare da questurini, niente, non ce lo tiriamo via, a dire è partito tutto da una pizzata. Potevi dire al comandante che siamo noi che abbiamo diffuso tra l'altro questa fake news. Ma non è vero, ha detto l'ha ripreso vari giornali e poi non sapevo dal TG2. Vabbè, comunque adesso ci sarà la smentita. Il dato di fatto è che purtroppo ce ne sono 140 in quarantena o 150. Pierpaolo da Bologna, eccoci Pierpaolo, buongiorno, grazie per l'attesa. Buongiorno, niente, ciao Milan, noi ci conosciamo già per uno sballo bello di l'anno scorso. Il collezionista con sua moglie che fa le collezioni di oggetti della prima e della seconda guerra mondiale, fa le lezioni nelle scuole. Mi ricordo che va nelle scuole a parlarne. Stupendo. Esatto. Niente, ti chiamavo questa volta per quella cosa che hai detto anche tu, cioè queste piste ciclabili assurde, e qui a Bologna non siamo da meno. Invito tutti a guardare via Saragossa, località Meloncello, nella località di Bologna, subito fuori porta, le porte antiche di Bologna, che è una pista ciclabile di larga più o meno come la porta di un appartamento, quindi intorno agli 80 centimetri, in mezzo nella corsia di marcia nella stessa direzione di due corsie di marcia nella stessa direzione. Sì, ma allora però io voglio richiarire, caro Pierpaolo, io sono a favore, sarei a favore, sarebbe stupendo, ripeto, una bella mobilità più sostenibile con le biciclette, con i monopattini, però vanno fatte bene le cose, ma per la sicurezza di chi tra l'altro è soprattutto il monopattino e bicicletta, se c'è un incidente con una macchina chi si fa male secondo voi? Tu capisci è tipo un buffer, le macchine vanno nella stessa direzione e in mezzo tra le due macchine, destra e sinistra, nella stessa direzione, c'è una pista ciclabile. Quindi chiunque della due macchine, per qualsiasi motivo, invade ma sbanda, anche di 30 centimetri, considerando che sono 80 centimetri in tutto, massimo un metro, basta che le invade 30 centimetri, chi passa bicicletta, monopattino, quella che sia, viene travolto. E sarà solo questione di tempo per questa pista ciclabile aperta da qualche settimana. No, ma infatti, cioè, purtroppo è così, cioè, le piste ciclabili vengano fatte, ma con la sicurezza, dovrebbero essere i ciclisti i primi a pretendere la bicicletta, ripeto, se c'è un incontro tra un ciclista e una macchina o una moto, chi dei due si fa male, possiamo anche ben immaginarlo. Comunque, Leonardo, che è successo? Ho sentito un motore che si avviava, stavi partendo con in camion. Questo ascoltatore ha partecipato alla campagna dell'anno scorso, lo sballo bello, lo sballo bello, sì. È una delle campagne che ha avuto meno successo in assoluto, ricordo che è durata pochissimo, potremmo riproporre forse un giorno. Forse un giorno con quell'ascoltatore. Ma perché, Leonardo, non lasci lì la macchina? Senti, ti do questa pazza idea e sali col primo autotrasportatore e vai a Trecate e fai un gran reportage raccontando cosa davvero, vedi. Perché la mia macchina oggi non va bene, purtroppo ho dei problemi, mi si è accesa una spia. Okay. E spero di poter riuscire a tornare a Milano perché non riesce ad andare oltre una certa velocità. Ci stai già dicendo, allora ha bisogno di un passaggio per Milano e all'area di servizio Castagnolo. Ma dubito di farcela, e poi quando freno vibra tutto, quindi sono un po' preoccupato. Ragazzi, ma spero di tornare. Vabbè, adesso siamo preoccupati anche noi per te. La mia auto ha 306.000 chilometri ed è forse arrivato il momento di cambiarla. 306.000 chilometri, devo dire, è un bel reperto. Vabbè, andiamo a sentire la borsa. Andiamo a sentire la borsa, poi ci dici. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan. Leo, ti sei accorto che per gli agenti di commercio c'è la lista numero 3 di Nasarco per il futuro? Eccolo là, io lo sapevo. Quasi quasi. Vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco, vota Nasarco. Lo sapevo, è diventato... Adesso non riesco qui a tirarmi via da questa... da questo cul-de-sac. Questo cul-de-sac. Sono qui con un viaggiatore, nonché trasportatore, che si è fermato e la grande prima cosa che ha detto è: ma che modo di lavorare? Ha ragione, nel senso che dovrei essere più tutelato da Radio 24. No, secondo me si riferiva al fatto che sei un fannullone, cioè che questo, cioè capite, così guadagna Manera fermandosi all'area di servizio però, Castagnolo, e dicendo due stupidate seduto su un tavolino. Bruno. Si chiama Bruno, fa un lavoro interessante, dicelo tu Bruno. Di pure, parla al microfono. Buongiorno a tutti, trasporto opere d'arte. Quindi fa questo lavoro particolare, trasporto opere d'arte. Ma da confine a confine come spallone oppure? Allora, adesso sta andando a Milano a caricare e poi le porterà clandestinamente in Svizzera. Sì, sicuro. Tutto irregolare, giusto? Tutto irregolare. Quindi senza fatture, tutto in nero. Ma cosa servono? Ma è bella questa cosa. Tre ore in dogana ogni volta. È un problema. Qual è l'opera più prestigiosa che ha trasportato? Tu sai che opere trasporti? Sì, sempre. Tipo qual è qualche autore che hai trasportato? Ma di tutti, di arte moderna, da Castellani, Boetti, Fontana. Quindi anche cose classici italiani. Quindi sì, anche cose che valgono molte, milioni di euro. Fontana, certo, Boetti valgono milioni. Ti è mai capitato di subire un furto? No, fortunatamente. Potrebbe essere oggi il giorno buono? Ecco, lei è a Castagnolo in questo momento. Poi facciamo metà. Ma non hai mai avuto la tentazione di simulare un furto e portarti a casa qualcosa? No, perché poi non saprei come rivenderli, perché... Chiama Mauro Meazza, guarda, basta chiamare Mauro Meazza. Un'autentica, hanno come avere una carta d'identità, rivenderle. Tu ti ritieni una persona fondamentalmente onesta oppure no? Beh, certo, per fare questo lavoro qui è un lavoro molto fiduciario. Hai dei precedenti penali? Com'è la fedina penale? Pulita o con problemi? Pulita. Questa rubrica fallirà miseramente perché nessuno si fermerà più. Da piccolo, come fanno tutti. Nessuno, Leonardo, si fermerà più a parlare con te. Questa rubrica fallisce miseramente. Posso confermare perché... che... il signore ha un viso di una persona onesta, tutto sommato. Grazie. Che bello. Tutto sommato. Una persona onesta, e lo ringraziamo per essersi fermato qui a fare due chiacchiere con noi. Grazie. Va bene, grazie. Grande. Leonardo, è stupendo, io te l'ho detto mille volte. Perché se no mia moglie non ci crede. Aspetta che il signore vuole fare una foto, dice, perché la moglie non giusto, ci crede. Perché la moglie ha fatto nell'area Castagnolo per lo scambismo. Sì, ma come mai sua moglie non le crede? Perché ha combinato delle cose lei. Sa che mi fermo spesso nelle aree di servizio. Per scambisti. Prima hanno detto che era una di per scambisti. E vabbè, ma magari può avere un rapporto con Manera. Può avere un rapporto con Manera, se volete. Potrebbe essere. Aspetta che facciamo un momento una foto. Aspetta una foto, un momento molto radiofonico questo. La foto fatta via. Va bene, cari ascoltatori, grande. Io, Leonardo, vorrei mandarti in giro così a questo punto, ma se tu fai queste domande improvvide. Però, intanto sentiamo Antonio d'Alessandria, perché poi abbiamo richiamato il nostro amico Teo Guadalupi. Antonio. Sì, buongiorno. Eccoci. Buongiorno e grazie per avermi ricontattato. Lei. Io volevo chiedere proprio un minuto di riflessione a tutti, persone e istituzioni. Capita, se lo vedrete in giro per le città, io chiamo Alessandria, ma succede per tutto, in tutte le città, di vedere, se si fa attenzione, a tante persone che sono ferme in auto, che consultano il telefonino, che aspettano qualcuno, che stanno lì con l'aria condizionata accesa, con i motori accesi anche per lungo tempo. Questo è un divieto che c'è da un articolo di legge del codice della strada, che è il 157,7 bis, che vieta di restare lì, e sono ammende anche molto alte che arrivano a 400 euro. Ma è soprattutto un fattore di educazione, visto gli argomenti trattati quotidianamente sull'ambiente, sull'inquinamento. È una questione appunto di comportamento. Pensiamo soltanto, invito le istituzioni, io non ho mai visto nessun vigile fare una multa per questo articolo di legge. Ma pensiamo che anni fa si fumava nelle sale cinematografiche, si fumava nei luoghi pubblici, poi sono usciti fuori i cartelli, giustamente si è capito la gravità. Certo. Allora, le istituzioni non potrebbero, a fianco al cartello di vieto di sosta, mettere anche tenere il motore acceso? A motore acceso? Sì, è motore, esatto. Antonio, va bene, la ringraziamo per questa segnalazione. Allora, da ieri Teo Guadalupi. Ciao, eccoci, buongiorno. Ciao Ale, ciao, buongiorno. Allora, la riepilogo velocemente e poi dimmi se sbaglio. La compagna di Teo torna dalla Grecia coi figli. Una figlia fa il tampone e risulta debolmente positiva al primo tampone. Al che il signor Teo Guadalupi, con grande scrupolosa e meticolosa precisione, avvisa il proprio medico, che gli dice: no, allora devi stare a casa 14 giorni anche tu e devi fare il tampone all'ASL. Solo che dopo, in 14 giorni, nonostante tutti i tentativi di contatto, Teo non viene mai chiamato dall'ASL, non fa un tampone. Per di più, la figlia della compagna al secondo tampone risulta negativa. Quindi tu ti sei costruito una meravigliosa prigione dalla quale non sai come uscire. Ma ci sono degli sviluppi, a quanto ci sono pare. Sviluppi? No, allora, no. Gli sviluppi sono che fondamentalmente io sono stato rapito e sono costretto a pagare un riscatto per la liberazione, cioè fare il tampone privatamente, eccetera, eccetera. Quello che ti abbiamo detto ieri, perché sennò rimani lì fino a Natale, Esatto, ieri mi sono giustamente deciso di andare a fare il tampone, sono andato in un istituto, l'unico istituto che me l'avrebbe fatto in giornata, perché tutti gli altri avevano tempi di prenotazione che andavano da un minimo di due fino anche a una settimana, da un minimo di due giorni fino anche a una settimana. Ieri quindi sono andato in questo posto dove mi avrebbero fatto il tampone per 125 euro. Ah, però. Però ho detto: vabbè ragazzi, spendiamoli, non ce la faccio più, andiamo, eccetera, eccetera. Sono andato e giustamente ieri c'era lo sciopero della sanità, quindi sono dovuto tornare a casa così, tristemente. No! Però Teo, tu ieri sei uscito di casa, quindi in qualche modo sei fuori legge, perché non avresti potuto uscire. Per fare il tampone devi uscire per forza, come fai? Non hai alternative, ci anche sono, se lo fai con, ci con sono tampone, la TS devi sì, uscire. Sì, ci sono infermieri anche ormai che ti vengono a casa privatamente, però giustamente se uno vuole recarsi. Mettiamo la base amara che di solito usiamo per Manera, perché Teo, prego, vai avanti, di qualcosa. No, c'è anche allora, una cosa positiva poi... a quanto pare, Teo. Sei stato contattato dalla DIP, no? La No, sì, la DIP a un certo punto dopo, ma in realtà la DIP 19 mi ha sempre risposto, anche se il problema grosso è l'ignoranza. Cos'è la DIP? Cos'è la DIP? Allora, la DIP 19 è un indirizzo email del Dipartimento Igiene e Prevenzione della Sabor, non mi ricordo più cosa vuol dire. Che è l'unico interlocutore con cui si può dialogare ed è tramite email. Quindi io li ho tempestati di email ed erano quelli che inizialmente mi dicevano: non romper le scatole, ci facciamo quelli che dovrebbero noi. Farti il tampone, insomma. E cosa ti hanno dovrebbero detto? Dovrebbero fissarmi l'appuntamento per il tampone, esattamente. Ieri, quando ho segnalato che ero al 17° giorno di quarantena, mi è arrivata una risposta e qui mi è stato detto: ah, prendiamo nota della segnalazione e facciamo le opportune verifiche. Quali possano essere queste opportune verifiche, io ancora non lo so. 17 giorni di quarantena, cioè si sta discutendo se ridurre la quarantena. Teo Guadalupi è da 17 giorni in quarantena senza sintomi. Oggi è il 18esimo. Senza alcun sintomo. Presumibilmente mi sento come la trattativa di Vidal col tampone negativo, all'Inter, fondamentalmente. Sì. No, no, ma tra l'altro, Leo, dicevi giustamente, la figlia della sua compagna poi è negativa, cioè nessuno. Cioè, ha attivato una procedura sulla base di un qualcosa di che di niente in realtà. Ma infatti io devo dire che il mio senso civico è stato duramente messo alla prova. Sinceramente, forse la prossima volta non sarò un così bravo cittadino, ve lo dico sinceramente, non mi vergogno di dirlo. Ma questo succede, adesso questione seria, il vero problema è che i protocolli non sono unificati, precisi, con un tempismo perfetto, perché se ci fosse tutto codificato in maniera certa e veloce, uno si affida a questo. Però io ti capisco, se la prossima volta c'hai anche più il dubbio di averlo, ma non lo dici. Chiaramente. Ma la cosa che mi sconcerta è che questi protocolli, cioè se fosse successo a marzo-aprile, nel momento di picco pandemico e in cui comunque si era partiti da poco, quindi magari ancora si stava un attimino carburando tutto il sistema, forse l'avrei capito di più. Ma siamo a settembre, metà settembre, quindi cioè 6 mesi dall'inizio della pandemia. Cioè il tutto dovrebbe essere un pochino più collaudato. No, tra l'altro molti ascoltatori dicono: ma che ci fa, ma esca, perché più di 14 giorni? Perché è in attesa formalmente del tampone che lo certifichi la sua negatività. Lo scagioni, cioè, perché se esce è anche uno che ha violato le disposizioni, che però sono disposizioni farlocche e non precise, dell'autorità sanitaria. Io ieri ho chiamato anche la polizia per sapere come comportarmi in questo caso. La polizia mi ha detto che loro non possono farci niente, però mi ha detto, il poliziotto è stato gentilissimo, mi ha detto: se tra una settimana è ancora in quarantena ci richiami. Se tra una settimana è ancora in quarantena mi richiamo, ma per costituirmi, perché ho fatto una strage. Sì, cioè, sì. Non si sta un'altra settimana in quarantena. Comunque domani mattina alle 8:30 ho prenotato un tampone privatamente in un ospedale qua vicino. Non c'è lo quindi... sciopero, forse. Domani alle 10:30 ti chiamiamo e vediamo un po' se è andata tutto bene. A finire, Teo, ti dico io come andrà a finire tutta la questione. Che domani, andando in ospedale, ti contagerai veramente. Ecco, no, vabbè, niente, è così, è Leonardo Manera, dai. Teo, non succederà, tranquillo, domani ci sentiamo alle 10:40, a quest'ora più o meno, dai. Andiamo al traffico. Amici ascoltatori, allegria. 1, nessuno, 100 Milan. Standing on the corner. Caro Leonardo, lì a Castagnolo. Oggi non è venuto a trovarti nessun personaggio, credo. Sei lì da solo, non ascoltatore, ma sei lì da solo e ti oggi tocca. Oggi faccio una. Vi darò una pillola di cultura oggi. Oh, una solo oggi? Di cultura. Solo oggi, ma di solito sì, tutti diciamo che ormai è usuale. Tendo a portare un po' di cultura in questa radio, dove senza di me non ce ne sarebbe. Quindi. E allora, la pillola di cultura di Leonardo Manera. Ale. Allora, ieri ho parlato dell'evasione di Johnny lo Zingaro, evasione che a quanto pare è stata causata dall'amore. E in fondo in molti nella vita hanno fatto follie per amore. Ma a questo punto, visto che l'amore condiziona così tanto le nostre vite, sarebbe utile capire cos'è appunto l'amore. E io ho scelto una sicurezza per capirlo, non un tronista di uomini e donne, ma un professore di sociologia tedesco per di più. Si chiama Niklas Luhmann, che nel 1968, in piena contestazione, in piena rivolta anticapitalistica, in mezzo ai tumulti studenteschi, tenne all'Università di Francoforte un corso sull'amore per capire come funziona dal punto di vista scientifico. Secondo Luhmann, nella società umana non si scambiano solo sostanze ed energia come per esempio tra batteri, non c'è scambio tra neuroni come nel cervello, ma nella società umana si scambiano aspettative. In tutti i sistemi sociali, in tutti gli ambienti, come la politica, l'economia, il lavoro, ci si scambia aspettative. Per esempio, io ti do uno stipendio e tu lavori, anche se non sempre funziona al contrario, cioè io lavoro e tu mi dai lo stipendio, soprattutto se fai uno stage. Ma anche l'amore, quindi, è un sistema sociale creato da aspettative codificate. L'amore non è solo un sentimento, dice Luhmann, è un codice borghese. Quando tu dici ti amo, non stai dicendo solo ti amo, perché insieme a quel ti amo c'è anche sottinteso un sistema di promesse e di aspettative. Quando tu dici ti amo, dichiari che il tuo sentimento è affidabile, prometti che ti prenderai cura dell'altro, sottintendi che sei disposto ad accendere un mutuo insieme, ad andare a fare la spesa insieme al centro commerciale, a conoscere e a stare con i parenti di lui e di lei, a condividere il bagno, l'armadio, a sopportare lui quando russa e ad aspettare lei quando si trucca e a vederla poi quando si strucca. Perciò quando dici ti amo in questo sistema di aspettative, non stai dicendo starò per te, con te per sempre, ma stai dicendo anche soffrirò per sempre, anche se in realtà Luhmann non dice proprio questo. Luhmann dice che in quel momento stai mettendo in gioco te stesso come individuo, perciò dire ti amo non è solo un rapporto con l'altro, è un rapporto con se stessi, dove tu stai dicendo io sono così, questa è la mia vera natura di individuo. In quel momento non hai un ruolo sociale che dice chi sei, non sei padre di famiglia, impiegato, dirigente di qualche azienda, sei Mario, Luca, Antonella, cioè con la tua vera identità. In quel momento è un'identità unica e irripetibile, che se l'amore è corrisposto viene riconosciuta dall'altra persona, che di quell'identità vede in te solo i lati positivi. Quando c'è l'amore non hai più un ruolo, ma è una identità, la tua vera. Ed è per questo che, se per esempio a lei manca un dente, in questo riconoscimento di identità che però fa vedere solo le cose belle, ed è questo, per questo che se a lei manca un dente, per esempio, tu vedi solo il sorriso, se lui è calvo vedi solo gli occhi, se lei di notte mette il pigiama con gli orsi, ti alza al mattino e vai a pescare le trote nel torrente, il tuo sogno erotico diventa l'orso yogi. Per Luhmann l'amore è un sistema borghese di aspettative dove ci si autorappresenta come individui e in cui si trova il senso della vita nella vita di un'altra persona. Il vero problema è che è il sistema più fragile di tutti, perché se le aspettative vengono sempre confermate, arriva la noia e ci si lascia. Se non vengono confermate, arriva la delusione e ci si lascia. A quel punto, se a lei manca un dente, tu la mandi dal dentista. Se lui è calvo, lei vede solo il riflesso della pelata. Se lei mette il pigiama con gli orsi, la mattina dopo chiami il ranger per portarla via. Ma alla fine si ricomincia sempre con nuove aspettative reciproche. Però a quel punto cercando qualcuno con la dentatura regolare, con tutti i capelli al loro posto e che di notte non mette il pigiama con gli orsi. Bubu, Bubu, grande, grande Leonardo. Guarda che questo format di te sui palcoscenici nuovi, cioè le aree di servizio, mi è già arrivato un messaggio a riguardo del mitico nostro ex vice direttore Leonello Mancini, che saluto e che ringrazio per questo suggerimento. Cioè tutti ti dicono dovresti fare questo adesso, stare nelle aree di servizio, caro Leonardo. Sì, ma c'è un problema tecnico, ecco, se ecco, il signor Sandro Fortunato mi risolve il problema tecnico, io posso anche farlo. Ma oggi è andata benissimo tecnico, per esempio. Sì, no, ma spiego. Il problema tecnico è che io ho l'auricolare che metto nelle orecchie. La persona che parla con me non ce l'ha, non sente, certo. E io devo allungare. È un problema semplicissimo. Guarda, lo risolveremo nel giro di 12 ore, credo. Sta decollando, no, è l'Alpino, è che dobbiamo chiudere. È Leonardo, domani in un'altra area di servizio. No, domani sei qua. Da lunedì, ci pensiamo da lunedì. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no alle 10 a me! Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.